Introduzione. Ridonare il dono. Filone. Un episodio della vita di un famoso fisico-matematico britannico, considerato uno dei fondatori della meccanica quantistica, Paul Dirac, 1902-1984, può risultare utile per illustrare l'impostazione del presente libro. Si racconta che egli fosse ovviamente molto abile con i numeri, ma piuttosto impacciato con le parole, per cui quando nacque il suo primo figlio e dovette inviare un telegramma al suocero per comunicare la bella notizia, scrisse semplicemente il testo 1 più 1 uguale 3. Il paradosso di questa formula è espressivo di uno scarto logico, di un salto, che si produce quando entrano in gioco paternità e filiazione. La necessità della somma elementare 1 più 1 uguale 2 viene scardinata dalla libertà di chi può generare. Da un pensiero al finito si passa a pensare a partire da una sorgente. Uno dei rischi del momento culturale attuale è intendere la creazione solamente a partire dal limite imposto dalla necessità, cercando di liberarsi da questo vincolo percepito come imposizione. Si dimentica invece che la logica più profonda insita nel creato è proprio quella della vita ricevuta e donata, in modo tale che il senso del mondo non è la necessità, ma la libertà del dono. Ciò è connesso a come viene percepita l'immagine di Dio. Se l'unica logica della creazione è quella necessaria, allora il creatore non può essere che qualcuno che mi impone una legge, mi chiude nel limite, mi getta nell'esistenza. Invece, la logica del dono, ciò cui rimanda la formula 1 più 1 uguale 3, è legata alla verità della paternità di Dio, dalla quale sgorga la creazione stessa. Perciò è importante leggere il mondo e la storia a partire da questa verità, perché il creatore è padre. Come Dio non è uno nonostante sia trino, ma è uno proprio perché è trino, così Dio è creatore proprio perché è padre. Chi crea è la Trinità stessa, che agisce come è, lasciando impressa nel creato la traccia del suo essere padre, figlio e il loro eterno amore. È la fonte e l'origine di tutto, della Trinità stessa come della creazione, è la prima persona divina. Quando Dante scrive alla fine della Divina Commedia il magnifico verso «L'amor che muove il sole e l'altre stelle», Paradiso 33-145, sta dicendo che il senso del creato è l'amore stesso, la libertà. Quella libertà che può portare alla condanna eterna contemplata nell'attraversare l'inferno e che implica la responsabilità di cui è conseguenza il purgatorio, ma soprattutto quella libertà che si identifica con il paradiso. Nei vespri del lunedì della seconda settimana del tempo ordinario, l'antifona del terzo salmo recita: «Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo». Per comprendere la creazione, per coglierne il valore, bisogna dunque guardare al Figlio incarnato che ne è il senso. Lui, che ne è il cuore, rivela come la creazione abbia origine dal cuore del Padre e tenda ad esso. Per questo la domanda sul senso è ineludibile in ogni uomo. Come ha insegnato Giovanni Paolo II nel corso delle catechesi sulla creazione, nella immancabile e necessaria riflessione che l'uomo di ogni tempo è portato a fare sulla propria vita, due domande emergono con forza, quasi eco della voce stessa di Dio. Da dove veniamo? Dove andiamo? Se la seconda domanda riguarda il futuro ultimo, il traguardo definitivo, la prima si riferisce all'origine del mondo o dell'uomo ed è altrettanto fondamentale. 8 gennaio 1986. In questo testo è messa in evidenza la connessione tra origine e fine. Essa appartiene alla profondità più intima del cuore di ogni uomo. A livello di storia della salvezza, ciò richiama la corrispondenza dell'origine exitus dall'azione creatrice del Dio uno e trino con il ritorno reditus alla Trinità stessa che ci attende e ci attrae. Ma questa attrazione non è da fuori, non è estrinseca, ma piuttosto siamo attratti da dentro, nel nostro stesso cuore. Il ritorno non è imposto e non si realizza in modo necessario, ma è dono e compito per la nostra libertà. Nel semplice agire quotidiano, quanto detto si traduce nella connessione tra cause e fini. L'uomo non agisce solo per cause deterministiche. La libertà, per definizione, fa saltare la dinamica deterministica. Per essere felice, l'uomo ha bisogno di ragioni per vivere, di fini, di motivi. La libertà è intrinsecamente connessa ai fini. La libertà è lo spazio tra cause e fini. Non basta quindi l'intelletto, ma ci vuole anche la volontà, cioè l'amore. Se non si parte dall'idea che Dio è amore e che la creazione segue la logica del dono e della filiazione, l'uomo si trova di fronte a un terribile dilemma. O Dio è buono, ma non è onnipotente, oppure è onnipotente, ma non è buono. La prima soluzione spinge verso l'idolatria, nel tentativo di cercare altri dei che possano coprire quegli ambiti dove Dio non arriverebbe. La seconda all'ateismo, perché un Dio onnipotente e cattivo è meglio perderlo che trovarlo. Entrambi gli atteggiamenti si riscontrano nella storia di Israele e vengono superati solo nella fede piena, come nel caso di Abramo. Ma nella storia del pensiero dell'uomo questo dilemma si è riproposto ogni volta che ci si è allontanati dalla fede, o per l'eccessivo entusiasmo suscitato dal progresso scientifico o per gli influssi delle diverse filosofie del tempo. In particolare, la Riforma protestante ha segnato un momento importante in questo ambito, che è stato la genesi di varie filosofie moderne e che ha ancora un enorme influsso sulla cultura contemporanea. Diversi autori, ispiratisi a Lutero, seguendo la sua convinzione che la natura umana dopo il peccato sia completamente corrotta, hanno cercato di separare creazione e salvezza, fino al punto da identificare la prima con una sovrastruttura filosofica. L'insegnamento essenziale dell'Antico Testamento sarebbe solo la dottrina dell'alleanza, solo la salvezza, mentre la creazione sarebbe dovuta a influssi del pensiero pagano. L'oggettività greca avrebbe preso il posto del personalismo cristiano. La teologia della creazione è stata quindi posta in opposizione radicale rispetto alla storia della salvezza ed è stata sempre più trascurata. Ma nell'Antico Testamento si nota chiaramente che gli ebrei sono condotti a riconoscere Dio come creatore proprio dalla sua azione salvifica, la quale dimostra loro progressivamente quanto il suo potere fosse assoluto e infinitamente superiore a quello delle divinità degli altri popoli. Il suo dominio non si estende solo a un territorio e non è limitato da nulla, proprio perché lui ha fatto ogni cosa. Gli ebrei, infatti, non trovano Dio nella regolarità della natura come in generale gli altri popoli, le cui divinità sono connesse al sole, alle stelle, ai fiumi e alle stagioni. La regolarità e la necessità non sono originarie, ma grazie alla relazione con Dio c'è spazio per la salvezza, per la speranza. Egli può salvare perché è creatore. Colui che salva è colui che ha creato. In questo modo l'alleanza che Dio inaugura nella storia non è altro che realizzazione e prolungamento di quella che ha iniziato con la creazione. Yahweh è un Dio fedele, fedele a se stesso. È quanto mai urgente recuperare questa connessione, dato che anche oggi, per gli influssi filosofici e per lo scientismo, si tende a considerare la creazione solo dal punto di vista delle cause, solo dal punto di vista deterministico. Ancora si rischia di leggere l'atto creativo in opposizione dialettica rispetto alla libertà, e il sospetto nei confronti del pensiero metafisico pesa sulla teologia della creazione. Tale atteggiamento si intravede anche laddove si tende a sottolineare esclusivamente la legge naturale come limite e come fonte ovvia dei comandamenti. Invece è essenziale la dimensione filiale, pienamente rivelata nel Nuovo Testamento, per comprendere che la creazione è dono, dono ai figli nell'amore del Figlio. Il dono fonda e costituisce la libertà, che porta al compimento della vita, del fine, nella libera restituzione del dono. Proprio questo ridonare il dono rende l'uomo figlio nel Figlio, in quanto per l'incorporazione a Cristo realizza nella sua vita, nella sua storia, l'essere figlio. La formula ridonare il dono sintetizza la teologia della creazione di Filone, autore ebreo che significativamente non conosceva Cristo, ma che dalla riflessione sulla creazione è stato condotto a riconoscere una dimensione filiale nella creazione stessa. L'uomo, dunque, trova la felicità quando comprende che il senso è il dono e che il dono è la filiazione. E ciò è insito nel cuore di ogni uomo che contempla il creato, come rivelano i versi di Tagore. Il fiore non valuta la sua bellezza, generosamente ha ricevuto e generosamente dona. La pioggia si trasforma nel profumo del fiore come dono ridonato che regge il ritmo della vita. Solo con questo sguardo sul mondo, sguardo stupito come quello dei poeti e dei bimbi, si può superare quel rifiuto del padre tipico della modernità, dettato dal sospetto e dalla difesa spasmodica della propria autonomia e della propria libertà, rifiuto che costituisce una delle cause profonde della crisi di pensiero contemporanei. E tutto ciò è possibile mediante il recupero della dimensione trinitaria e della connessione tra economia e immanenza, cioè tra l'agire e l'essere di Dio, in quanto l'opera della creazione come atto della Trinità viene riconosciuta opera d'amore, che ha il suo senso nel Figlio. Dietro la dimenticanza di questo aspetto si nasconde la crisi del rapporto tra filosofia e teologia, che si traduce nell'opposizione di creazione e salvezza. In questa breve introduzione si cerca di superare questa impostazione, ritornando all'approccio dei padri della Chiesa, i quali sottolineavano molto l'unità del disegno divino, leggendo ad esempio i primi tre capitoli della Genesi alla luce dell'unità di Antico e Nuovo Testamento. Scoprirono così che essi contengono un abbozzo di tutta la storia della salvezza, di tutta la storia dell'uomo, creazione, caduta, promessa. La riscoperta della teologia della creazione è quindi fondamentale per confrontarsi con l'epoca attuale e per affrontare temi essenziali nell'apostolato cristiano come il male e la libertà, per comprendere l'autonomia del creato e la vocazione dell'uomo, il valore del suo lavoro, la santificazione oggettiva del mondo. In particolare, essa è essenziale per la possibilità di dialogo con chi non crede. Come ha scritto Joseph Ratzinger, non è certo per caso che il simbolo apostolico comincia confessando «Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra». Questa fede primordiale nel Dio creatore, dunque un Dio che sia davvero Dio, costituisce come il chiodo a cui tutte le altre verità cristiane sono appese. Se qui si vacilla, tutto il resto cade. Rapporto sulla fede, Cinisello Balsamo, Milano, 1985, pagina 78.